X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Alfio Marchini, 48 anni, romano, sposato, 5 figli, un imprenditore prestato alla politica, erede di una dinastia di costruttori tradizionalmente vicine alla sinistra e al Vaticano. Alle elezioni per il sindaco di Roma del maggio 2013 ha preso quasi il 10% dei voti con un movimento di volontari costruito in 3 mesi. Ex capitano della nazionale italiana di polo, oggi è un politico a tempo pieno. Passati 9 mesi di silenzio, o quasi, oggi parla dopo quello che il sindaco di Roma Marino ha detto qui a Mix 24, provocando una crisi tra lui e il neo presidente del Consiglio Matteo Renzi. Roma deve poter spendere solo e esclusivamente i soldi che ha. Sì, e ma non senza... come ha fatto. No, guardi, mi lasci dire perché sono veramente arrabbiato. Ma anche noi, i romani arrabbiati, sindaco, no, per questo. E hanno ragione, dovrebbero inseguire la politica con i forconi. Io da domenica blocco la città. Oh. Ecco, ingegnere, un sindaco che dice blocco la città, ma si può? No. E quando ha sentito cosa ha pensato? Guardi, è stato un ricatto vile, ha usato Roma e i romani come uno scudo. Senta, coinvolgendo tra l'altro in questo, scusi, suo delirio anche perfino il Papa. Un servitore dello Stato non ricatta una comunità di persone, non ricatta il proprio Presidente del Consiglio e non rinnega e insulta il partito a cui deve tutta la sua carriera politica, tra l'altro. Il sindaco di Milano, Pisapia, ha detto: se pensa così si danno le dimissioni e basta, è giusto? Giustissimo. Perché? Vede, evidentemente Pisapia ritiene onore e coerenza ancora un valore importante. Senta, Carlo Verdone a Francesco Merlo su Repubblica ha detto: abbiamo sentito menzogne di ogni tipo. Beh, vero? Beh, direi tutta la campagna elettorale è stata un trionfo di bugie e di promesse poi tradite. Ma quale è la peggiore? Guardi, innanzitutto ieri quando in campagna elettorale ha promesso 700 euro agli sfrattati o addirittura 500 euro di bonus ai giovani disoccupati. Ovviamente tutte cose svanite nel nulla e oggi, ahimè, mente sapendo di mentire quando asserisce che non aumenterà le tasse. Ecco, ma ha anche detto: capisco che non ci danno i soldi perché pensano che li rubiamo. Un giudizio spietato di Verdone, giustificato? Beh, direi inquietante. Perché? Bah, forse il sindaco capirà perché è giustificato il fatto che non gli danno i soldi. Io, ascoltando le sue parole, capisco poi perché la gente non va a votare. Ecco, ingegner Marchini, in campagna elettorale lei aveva denunciato l'esistenza di 600 milioni di buco nel bilancio. Non è servito a nulla, le promesse, l'abbiamo sentito, sono aumentate. È un altro modo per rubare il futuro ai cittadini? Evidentemente, assolutamente sì. Ma il presidente Renzi è stato durissimo con Marino. Ha rifatto un decreto con vincoli strettissimi che impongono tagli, vendite, liberalizzazioni. È un commissariamento di fatto? Sì. Solo Marino non ha ancora capito, ma abbiamo imparato in questi mesi a conoscere la sua difficoltà a relazionarsi con la realtà, ma vedrà che lo capirà. Ma questo qui è un piano di ripartenza, di risanamento o un ennesimo pannicello caldo? Beh, sinceramente ritengo che la direzione sia la direzione giusta, ma è bene dire chiaramente che fin da ora sappiamo che al netto di tutti gli aiuti del Salva Roma nel 2014 il buco sarà di un ulteriore 600 milioni di euro. Accidenti. Senta, ma a novembre lei, appunto, a proposito di questo, aveva detto: il fallimento economico di Roma è un'ipotesi che non mi spaventa. Era meglio quella allora? Guarda, io avevo detto una cosa diversa. Io avevo detto che qualora non si fosse approvato il bilancio previsionale, tra l'altro a novembre, sarebbe arrivato il commissario. Oggi mi sembra che sia chiaro a tutti che un commissario è il male minore rispetto ad andare avanti con questa giunta. Senta, anche Detroit, la capitale americana dell'automobile, è fallita. E da quel fallimento però è rinata. Vale anche per Roma? A Roma si può sicuramente evitare il fallimento, anche se oggi il Campidoglio è una macchina che è senza guida, allo sbando assoluto. Perché? Ma vede, lei immagini che oggi qualsiasi dirigente con potere di spesa può impegnare il comune per servizi che poi devono essere comunque pagati dal comune e sono ratificati ex post. Di fatto Roma ha una contabilità fuori bilancio che incide pesantemente sui conti e quindi anche sulle tasse che poi i cittadini devono pagare. Ecco, ingegnere, accidenti. Ingegner Marchini, ma parliamo di cose concrete però a proposito del Comune di Roma. I dipendenti diretti del Comune sono 25.000, quelli indiretti 37.000, le società partecipate 160. Beh, da dove si comincia allora? Guarda, abbiamo un piano pronto nei minimi dettagli su come riorganizzare completamente la macchina amministrativa. Riorganizzare non vuol dire licenziare, ma quello che noi dobbiamo dire in modo molto chiaro è che il punto nevralgico di un'amministrazione è il funzionamento della macchina burocratica. È di lì che bisogna ripartire e sinceramente riorganizzare strutture, uomini è ciò che ho fatto da tutta la vita. Io credo che in più dovremmo lavorare anche sul fronte delle entrate. Oggi nel turismo Roma incassa molto meno rispetto a quello che potrebbe fare. Ovviamente se si spendono, come ha fatto questo sindaco, ben 3 milioni di euro per una pedonalizzazione fantasma dei fori, sicuramente non possiamo lamentarci. Se lei in campagna elettorale ha detto bisogna garantire le fragilità sociali e delegare ai cittadini il controllo e la gestione del territorio. Mi fa un esempio concreto? Guardi, sono due cose distinte. Quando parliamo di fragilità sociale, io dico che vede, il funzionamento dello Stato e anche del Comune di Roma presupponevano due concetti fondamentali: risorse illimitate, dare tutto a tutti. Questo non è più possibile. Noi dobbiamo garantire tutto alle persone più fragili, delegando ai cittadini alcune funzioni che oggi lo Stato non può più fare, e questo vale anche per il Comune. Ecco, poi nel merito della specifica sua domanda, ma le rispondo. Vede, noi dobbiamo trasformare, ad esempio nel caso della raccolta dei rifiuti, una tassa in un servizio. Le faccio questo esempio molto banale, quindi ci vorrà forse 30 secondi, ma credo che sia importante per chi ci sente, sennò parliamo di cose abbastanza astruse. Prendiamo la raccolta famosa differenziata, che oggi il Comune di Roma fa porta a porta con dei costi altissimi. Roma, in un condominio medio fatto da 70 famiglie, può dire tranquillamente ai condomini di mettere in un unico grande contenitore, immagini un cortile interno, tutti i loro rifiuti in forma differenziata. La raccolta a questo punto viene fatta direttamente da un operatore che lo porta a un impianto di riciclo, e questo qua che cosa comporta? Comporta che i cittadini e i condomini avranno un abbattimento dal 30 all'80% della tariffa che pagano. Quindi noi abbiamo di fatto trasformato una tassa in un servizio. Senta, ma la fragilità sociale come si garantisce dai tagli? Guardi, innanzitutto noi dobbiamo, come ho detto anche in campagna elettorale, creare un fondo intoccabile rispetto a qualsiasi spending review. Un fondo che a mio avviso debba essere alimentato, esempio, con la tassa di un euro che si paga su tutti i biglietti aerei che vengono fatti per chi viene a turismo, Roma. Quindi, sì. Io penso che anche il turista, il fatto che condà un proprio contributo alla fragilità sociale di Roma, penso sia anche un profilo etico che non sarebbe male. Senta, ma finora il consociativismo è stato quello il male peggiore di Roma? Sì, devo dire che ultimamente a Roma si coglie un altro aspetto molto inquietante. Un crescente clima mafioso dove sembra che la cosa più importante sia avere l'amico giusto al posto giusto, e questo è molto grave. Senta, ma vista da fuori sembra che il PD abbia abbandonato Marino al suo destino, è così? Guardi, sì, Marino ha usato il PD come un taxi, prima per farci eleggere senatore, poi sindaco, e oggi li dipinge come una banda dedita al malaffare che ha devastato negli ultimi 20 anni Roma. Vede, e questo qua è un modo poco elegante di giustificare il proprio fallimento il cosiddetto refrain dei politici dei poteri forti. Ha fatto un grave errore e ho avuto anche modo di dirglielo direttamente. Ecco, ma cioè si applica il metodo Letta anche a Marino, appoggio gelido e critico e poi fuori? Beh, non confondiamo la sete con la lana. Diciamo che Letta è un grandissimo professionista, una grande risorsa della politica italiana. Vabbè, comunque Marino è stato scelto con le primarie. È il fallimento di questo metodo di scelta? Diciamo, vede, nessun metodo è perfetto se le persone sono sbagliate. Senta, Roma è una città nella quale il sindaco Marino, ex senatore, l'abbiamo sentito prima, dice ai cittadini inseguite i politici con i forconi, ma è un caso di amnesia praticamente. Direi piuttosto un caso di scissione della personalità e una certa spregiudicata manipolazione della realtà. Carli, che lei sa era per me una persona molto importante, l'avrebbe definita la gratitudine del giorno prima. Senta Marchini, lei dopo aver preso il 10% dei voti alle elezioni, partendo praticamente da zero, però poi è sparito, si è preso 8 mesi di vacanza? No, ho semplicemente lasciato il campo libero per togliere ogni alibi, dando la possibilità a chi era stato eletto democraticamente di rispondere con atti e fatti concreti. Mai attesa fu più vana. Senta, il bilancio 2013 del sindaco, che è il suo documento programmatico di governo, lei lo approva o lo contesta dopo tutto quello che ha detto? Lo abbiamo duramente contestato, è stata fatta una forzatura per evitare che noi facessimo ostruzionismo, ed è bene che si sappia che la nostra posizione sul bilancio 2014, come le ho detto, dovrà ripianare un deficit di 600 milioni di euro, sarà ancora più dura, e spero che questa volta il Movimento 5 Stelle, che finalmente ha scoperto l'ostruzionismo a livello nazionale, eviti di fare la stampella al sindaco Marino. Marino. Ma ne ha parlato personalmente con lui? Io pochi giorni fa gli ho detto che ha sbagliato tutto, compreso gli ultimi giorni, queste uscite che sono state intempestive, ingenerose e inopportune. Senta, Carlo Verdone dice che Roma oggi è una città sbagliata ed è il biglietto da visita di un paese sbagliato. È terribile, eh? Beh, io direi che Roma è sempre stata un po' la metafora del paese, penso che questo sia... Quindi anche in questo caso. Senta, ingegnere, lei è un imprenditore prestato alla politica, una passione improvvisa? No, guardi, la passione per la politica, ahi noi, è qualcosa che abbiamo nel nostro DNA da oltre 5 generazioni. Abbiamo sempre pagato, questo io ci tengo a dirlo, in prima persona, e l'abbiamo sempre fatto alla luce del sole, mettendoci la faccia su quello in cui crediamo. Ma i suoi interessi imprenditoriali oggi in che settore sono? Guarda, oggi sono assolutamente marginali. Oggi è la politica il campo nel quale ho deciso di mettermi in gioco. Ecco, nel suo DNA familiare, però, l'ha detto anche lei, ci sono tracce pesanti di quel consociativismo che oggi lei condanna, convertito sulla via di Damasco. Beh, no, io intanto non ho detto che c'è nel mio DNA il consociativismo, ho detto nel mio DNA... sua famiglia. Ecco, beh, guardi, allora c'era la guerra fredda, la democrazia era bloccata e il consociativismo era inevitabile. Lei, oltre a essere... Oggi no. Oggi è un vero cancro e secondo me è uno dei grandi mali di cui noi dobbiamo liberarci. Lei, oltre ad essere ingegnere, ha anche studiato teologia. Perché? Questa è una domanda un po' personale. Diciamo che la fede è un amore non irrazionale. E chi o cosa l'ha spinto a studiare teologia? L'esigenza di dare basi razionali a questa fede? Perché la fede è un dono, ma è anche un cammino spesso duro e buio. E in questo viaggio cuore e ragione, diciamo, si fanno coraggio. Senta, suo nonno Alfio era comunista, partigiano e costruttore, soprannominato Calce e Martello. Lei è mai stato comunista? No, mai. Il mio primo voto andò ai repubblicani, Partito Repubblicani, con la disperazione di mio nonno. Sarà stato poco contento. No, era disperato, però è stato un uomo che io ho molto amato e di cui spesso ci confrontavamo in modo molto acceso. Lui era, mi voleva ridimere al pensiero, al famoso libretto verde di Lenin, diciamo. Non c'è riuscito. Senta, ma chi sono i punti di riferimento culturali suoi? Beh, è difficile sintetizzarli, diciamo, da un punto di vista spirituale, etico. Sicuramente Sant'Agostino è una figura centrale nel mio riferimento. Il liberismo sociale europeo è sicuramente la mia stella polare, e direi in genere un po' i classici della nostra letteratura. Senta, lei ha vissuto alcuni anni in Argentina, dove il cardinal Bergoglio era primate. Se lo aspettava così rivoluzionario come papa? Assolutamente sì. Guardi, è un uomo profondamente innamorato di Cristo, che io ritengo essere il più grande rivoluzionario di tutta la storia. Ma che esempio è per la politica, Papa Francesco? Molti dicono la sobrietà, io direi che questo qua è riduttivo. Aggiungerei sostanza, coraggio di chiamare le cose con il loro nome, servizio, empatia con il proprio popolo, che è fondamentale, certo. E soprattutto visione e una speranza, che è la cosa importante. Ma lei ha sempre avuto una passione speciale, l'ho letto preparandomi, per i grandi vecchi come Cuccia, Cossiga, Simon Peres, Napolitano, eccetera. Perché? Perché? Perché non c'è promessa di futuro senza memoria. E poi devo dire, forse anche sicuramente il mio vissuto personale e familiare ha inciso un po' in questa mia inclinazione. Senta, ingegner Marchini, ma oggi ha un grande vecchio preferito? Beh, oggi se io dovessi guardare nel panorama complessivo a livello mondiale, ci sono due grandi vecchi che si stagliano su tutti, due giganti, che sono secondo me Simon Peres e Papa Francesco. Ma in un mondo super giovanile come quello che sta avanzando in Italia con Matteo Renzi, l'esperienza è ancora un valore oppure è solo un freno? Io le posso dire quello che l'esperienza è per me. Un detto popolare dice che l'esperienza è un pettine che ti regalano quando hai perso i capelli. Per cui io credo che, secondo me, visto che è così, è bene che qualcuno che abbia esperienza possa sempre dare supporto a chi ha il coraggio di cambiare le cose. E che ha tanti capelli, quindi c'è tempo ancora. Senta, Renzi le piace? Un bel animale politico. Senta, ma il suo governo, secondo lei, sarà il governo di un barbaro rivoluzionario o solo un Letta bis? Io le posso dire quella che è la mia convinzione. Lui deve, assolutissimamente deve, essere un barbaro rivoluzionario. Ecco, ma per cambiare l'Italia, oggi quindi serve anche saper rovesciare i tavoli. Sì, diciamo che non basta, no. Bisogna evitare di rinnegare la propria memoria. Rivoluzione sì, senza tagliare le nostre radici culturali, e io vedo ogni tanto una tendenza a farlo. Ma Renzi può essere l'uomo giusto in questa direzione? Me lo auguro, ce lo auguriamo tutti a livello mondiale, tutte le persone che sento se lo augurano in continuazione. Senta, ma ingegner Marchini, lei si alleerebbe con lui per governare e per cambiare Roma? Le alleanze, come lei sa, si fanno sui programmi e non sugli schemi a priori. I suoi nemici dicono che lei a Roma è l'altra faccia degli interessi dell'ingegner Caltagirone, che è un importante costruttore, editore, finanziere romano. È vero? Questa domanda l'hanno fatta 25.000 volte. Immagino. In tutta la campagna elettorale. Guardi, abbiamo 25 anni di differenza. Siamo due persone che hanno fatto della loro autonomia una scelta di vita e quindi diciamo sappiamo scindere molto bene ciò che è il rapporto umano da quello che sono le sfere di competenza. Ma lo conosce bene? Sì, ovviamente. E lo stima? Lo stimo. Ovviamente nessuno è perfetto, ma magari ce ne fossero molti di più di imprenditori di questa qualità, di questo livello. Senta, qualcuno ha scritto che Berlusconi avrebbe visto in lei, Marchini, il quid che non ha trovato in Alfano. È vero? No? Guardi, se vuole che rispondo sinceramente... Vorrei. Ecco, io penso che c'è una sola persona nella testa di Berlusconi idoneo a sostituirlo, che è se stesso. E penso che credo abbia ragione. Ma l'ha cercata o no? Guarda, ci siamo incontrati, come mi è capitato di fare con altri leader italiani e stranieri. Devo dire una cosa, che malgrado l'età, perché ormai non è più un bambino, l'ho trovato straordinariamente lucido e determinato, e quindi forse avrà fatto un patto col diavolo. Ma crede che l'accordo Renzi-Berlusconi sulla riforma elettorale sia un bene per il paese o no? L'ho definito qualcosa di assolutamente necessario, ma non sufficiente. Perché? L'economia è oggi la grande priorità. Mi sarei aspettato da Berlusconi che avesse imposto anche nell'agenda di affrontare alcuni temi economici, e credo che oggi Renzi abbia molto chiaro la priorità grande che ha questo paese, è quello di rimettere i soldi in tasca alle famiglie e riaprire il credito verso la gente. Mi lasci un solo istante. Guardi, il credit crunch che noi avremo nei prossimi 9 mesi sarà ancora più forte, perché le grandi banche saranno sottoposte alla vigilanza della Comunità Europea, e questo comporterà uno stress delle strutture che all'interno delle banche dovranno erogare il credito. Quindi noi dovremo avere la percezione che nei prossimi 8 mesi il credit crunch, cioè la difficoltà delle imprese di finanziarsi, sarà ancora forte. Questo è un tema che deve essere ben ben preciso nella mente, insomma, di chi oggi dobbiamo si governa. Continuare a dare la nostra vita per le banche, insomma. No, noi dobbiamo continuare a fare in modo che le banche possano dare la possibilità di erogare il credito e dare soprattutto creare dei canali anche alternativi alle banche, affinché oggi la liquidità enorme che c'è a livello mondiale possa andare anche alle piccole e medie imprese. Senta, nella sua campagna elettorale, ne abbiamo un po' parlato, lei ha mobilitato molti giovani appassionati. Ecco, questi giovani che fine hanno fatto? Le rispondo con uno slogan: pronti alla battaglia. Vabbè, proprio uno slogan sul serio. Senta, ma girando nei quartieri di Roma, come penso le capiti di fare, sente solo rabbia e rassegnazione o c'è speranza? Guardi, sicuramente c'è molta rabbia, c'è la voglia di riprendere, ma devo dirlo senza nessun tipo di eccesso di demagogia, ho trovato anche una sorprendente quantità di talento e di passione. Senta, ma tra i tanti sindaci che lei ha avuto, che insomma che ci sono stati a Roma, c'è un modello da imitare? Sì, senza ombra di dubbio il nome che mi viene in mente è Petrocelli, tra l'altro un amico di famiglia. E perché? Ma perché era il sindaco padre che ognuno di noi sognava, la persona che tra l'altra parte penso che abbia sacrificato la propria vita al servizio dei romani e di Roma, una persona seria, sobria, non demagogica, che tra l'altro mai si sarebbe neanche lontanamente sognato di fare le esternazioni che l'ottimo Marino ha fatto. Senta, ingegner Marchini, le faccio un'ultima domanda. Carlo Verdone dice che il film su Roma, La grande bellezza, che tra l'altro ha vinto ieri sera l'Oscar, e quindi siamo tutti felici. Ecco, questo film, dice Verdone, è bello perché ha dimostrato che sotto al fallimento di Roma, la Roma amministrativa, c'è sepolta una grande eterna bellezza. E questa è la speranza da avere per Roma. Vede, chi non vede questa grandissima bellezza è cieco, e mi lasci concludere con un altro slogan da campagna elettorale, ma è vero. Vabbè, proprio sta facendo campagna elettorale. Ah, certo, ovvio, siamo partiti. Sennò che veniva a fare? No, è così. Guardi, chi non ama Roma è cieco e che quindi non è degno neanche minimamente di poter... Vede, mi lasci dirle una piccola cosa. Dica. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale con un cuore. Sì. Una città cinica come Roma, invece di scherzare e di sorprendersi del cuore, si è emozionata, ci ha dato dei voti. Io credo che sia da lì che dobbiamo ripartire. Senta, lei ha detto siamo in campagna elettorale, vuol dire che prevede la campagna elettorale Marino a casa allora. Io non so se è Marino a casa, noi faremo di tutto per farlo. Grazie. Mix 24 800 24 00 24 il numero verde, 349-238-6666 l'SMS. Allora Mario, che titolo faresti per il faccia a faccia di Marchini? Marchini, rottama, Marino. E tu, Pietrangelo? Marino dell'Enda Est. Beh, insomma... È sempre colto questo qui. Ma che colto, c'è un liceo da difendere. Angelo, allora questa canzone? Perché voglio continuare, perché ci sono sempre quelle macchie di giallo, poi ci sono le basette per strada fatte dai fiori, perché arriva la primavera, quindi una danza dionisiaca occorre, e quindi Carlos Santana. Accidenti. Ma io ho paura che ci sia sempre dietro qualcosa di strano. No, smettila. Sara. Sì. Mi sembrava che ci fosse una tua canzone, no? Sì, adesso la mettiamo, vai. Keep giving me a heat, keep on giving me a heat. Every time we're making love, it's the same thing. Questa era un'altra cosa. Questa, siccome era che ci eravamo riservati, adesso faccio sentire. Avevo ragione a dire che abbiamo bisogno di un po' di riabilitazione in regia. Accidente, sì, vedo la confusione che avanza. Mario, che cosa bolle in pentola? Andiamo, va. Allora, che cosa bolle in pentola? La senti bollire? La sento. Bollire in Italia sì, però molto di più intorno al mondo in realtà. Mi sembra di sì. E quindi facciamo partire che cosa? Un'orchestra direi, no? Dovreste vedere la faccia di Buttafuoco. Buttafuoco c'ha la faccia del vincitore, mi sembra, più o meno. Oh, non ho mai vinto una guerra. Questo Putin gli sta risollevando il morale. Dai tempi delle mura di Ilio. Vabbè, insomma, facciamo il punto in Ucraina, magari. Ognuno di noi dice la sua, però insomma, dopo il colloquio da 90 minuti tra Barack Obama e Vladimir Putin, la situazione resta come prima, nel senso che ci sono delle truppe speciali in Crimea, Putin si è fatto autorizzare all'uso della forza dal Senato russo, è un'opzione che lui mantiene ovviamente, sì, certo. Non ha fatto ancora l'invasione che tutti in realtà si aspettano, gli Stati Uniti minacciano la diserzione del G8, potete immaginare, cari ascoltatori, cosa possa importare all'ex colonnello del KGB Putin. Della diserzione del G8. Ma la Timoshenko incontra Putin, no? La Timoshenko incontra Putin oggi, se non sbaglio. Naturalmente ci sono delle trattative diplomatiche in corso, Kerry dovrebbe andare a Kiev, però la verità, Giovanni, è che lì c'è un problema, no? È che la Crimea è russa. Bravo. Quello è il problema fondamentale. La Crimea è russa. Ma secondo voi quelli possono rinunciare a Yalta? Cioè Pietrangelo non parla perché sta godendo. Gongola e basta. Sta godendo. È solo felice. Cioè Yalta è il posto dove il baffone ha spartito le sorti del mondo. Ma ancora prima gli zar. Va bene. Ancora prima gli zar. Voglio dire sì, ok, però... Insomma, se tu ti fai un giretto per vedere le foto, dico Google, il social network, quello che vuoi, ti accorgerai che ci sono, sono scene surreali, perché ci sono queste truppe di invasione e poi contemporaneamente la gente che passeggia tranquillamente con, che ne so, ne ho visto una fantastica, una che si trascinava una valigetta da viaggio allegramente e così via. Insomma, c'è qualcosa che non va. Non so che cosa succederà, certo, è uno stato di tensione molto, molto alto. Molto forte. 800, il numero verde, 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666, Salamini. Salamini, oggi vorrei cambiare musica perché ai Salamini vorrei contrapporre una scampagnata ucraina. Appena arriva... Ecco, è arrivata. Perché mi ricollego a quanto detto prima da Mario Secchi. Cosa vuoi che possa importare al colonnello del KGB delle decisioni degli Stati Uniti d'America riguardo al G8? Ma è preoccupatissimo invece del vertice che immediatamente hanno organizzato Matteo Renzi e la Mogherini alla Farnesina. No, e che è successo? È successo che da retroscena, che a voi non piacciono ma che comunque portano certe notizie, racconta. Putin comunque ce l'ha un amico in Italia a cui confidare le segrete cose, quello che parlare. Diceva l'amico Putin, quello che diceva l'amico Putin, cioè Silvio Berlusconi. Anzi, era così, l'amico Putin. E si è scoperto con quale grande prospettiva geopolitica Matteo Renzi e la Mogherini hanno affrontato la crisi in Crimea. Vabbè, questo non lo sappiamo in realtà. Si sono attrezzati con Google Map. Vabbè, mamma mia. Perché manco sapevano dove fosse la Crimea. Vabbè, è un antico problema italiano quello di non conoscere la geografia. No, ma la Crimea poi... gli italiani lo sanno benissimo dov'è. Perché gli è servita anche sapere dove era la Crimea. Giovanni, grande Cavour. Tu hai fatto la storia. Sai benissimo. È venuto fuori piemontese. Che là non dove difetta la geografia, ai noi difetta pure la storia. Però la soluzione l'hanno trovata. Un po' di musica. Sapete come? Cos'è? Si sono attrezzati con Risico. Solo questo hanno potuto comunque fare. Comunque questo sembra Raul Casadei, devo dirtelo. Vabbè, Venezuela. Questa è Cuba però, Sono il Buena Vista Social Club, ragazzi, sì. No? Ok. La regia ha fatto bene. Bella, Allora, perché il Venezuela? Perché se ne parla quasi nulla, perché diciamo il mainstream dell'informazione è tutto assorbito, va da sé, dalla vicenda ucraina che sta in Europa. Però in Venezuela noi ne abbiamo dato conto altre volte nel nostro Cosa Bolle in Pentola qui a Mix24, sta succedendo un po' di tutto. La presidenza Maduro è in grande difficoltà, sapete tutti, l'eredità di Chavez è molto contestata, ha vinto le elezioni veramente di una spanna, il paese è precipitato nel giro di pochi mesi nel caos. C'è questa figura molto interessante, invito tutti un po' a documentarsi, a leggere, che è quella di Angel Vivas, che è un generale che contesta Maduro dicendo: no, qua dietro c'è la politica di Cuba, quindi un governo comunista con un governo socialista. Maduro ne ha ordinato l'arresto in diretta TV, lui è scappato sul tetto di casa con tanto di pistola, è protetto oggi nella sua casa dalla popolazione, ci sono stati molti morti, 17 nelle ultime settimane. Ma e le cose come vanno? Benissimo, perché? 56% di iperinflazione e la produzione di petrolio che sta costantemente crollando, per ora di un quinto a 2,5 milioni di barili al quindi giorno. Il Venezuela non sta bene. Non sta bene, ma noi risolveremo tutto in Italia come? No, non lo risolviamo. Tutte in lista, butta fuoco, perché? Perché c'è il Papa straniero. Mamma mia. Ma chi è il Papa straniero? Tsipras? Greco. Ma tu l'hai vista questa cosa, Giovanni, che si candidano Barbara Spinelli, Monio Vadia, Andrea Camilleri, Adriano Prosperi nella lista delle europee di Tsipras? Per fortuna c'è la libertà di scelta. E sono tutti uomini chic e femmine pettate. sbagliata. Sì, no? E si ritroveranno tutti con la tartina in mano e lo champagne in terrazza a fare magari una discussione tipo questa. Lavori tutta la settimana in televisione, esci tutte le sere, pure il lunedì, quando non si manifestano neppure gli spacciatori di Popper. I due figli stanno sempre senza di te, pure durante le vacanze lunghe che ti concedi. Poi hai, per la precisione, un maggiordomo, un cameriere, un cuoco, un autista che accompagna i ragazzi a scuola, tre babysitter, insomma, come e quando si manifesta? Parlando così, forse non si vincono le elezioni, ma si vince l'Oscar. Perché questo, naturalmente, era Sorrentino. Grandissimo. Bellezza, sono molto contento. Perché secondo te l'ha vinto? Perché molti l'ha dicono vinto perché dipinge il film era l'Italia. Bellissimo. No, dipinge l'Italia, perché era un grande quadro, bellissimo, con la fantasia di raccontare delle situazioni al di là di quello che c'è sotto. A me è piaciuto. Ci hai ritrovato molto. Fellini, tu, per esempio? No. Io, ecco, perché molti dicono no, ma è una citazione di Fellini. Io penso che è originale, è un anche punto io di vista penso originale. Tu, Pietrangelo, no, non ti è piaciuto. Non l'ho capito, non è che non mi è piaciuto, non l'ho capito, forse non sono degno. No, beh, se andavi a Hollywood te lo spiegavano, dice, gli diamo l'Oscar perché c'è la motivazione. Dizzi che deve arrivare fino a Hollywood. Ma tu sei già hollywoodiano. E allora? E allora andiamo in pista. Oscar Pistorius, 20 anni, capace di 46 netti manuale, che cerca il 45-95 per partecipare ai campionati mondiali di Osaka in Giappone. Ed che parabola, senti. Questo può esserci forse un po' di supporto delle protesi. Che parabola, eh? Pistorius, dal Pistorius è la pistola, ahimè. No, vabbè, la sua storia è una brutta la sua storia cosa, è tremenda. Vabbè, comincia il processo al campione sudafricano, è accusato di aver ucciso la fidanzata, tra l'altro in maniera ferocissima. Sì. È un processo anche che secondo me potrebbe avere dei colpi di scena, perché lui ha preparato una difesa alla O.J. Simpson, dice qualcuno. Vedremo che cosa succede di questa cosa. Naturalmente dibattito aperto su chi è colpevole 800 24 00 24, per chi vuole intervenire, numero verde, SMS 349 238 6666. E noi dove andiamo, Pietrangelo? Perché avevi una cosa da dire. Sì. Dai, La musica è adatta, perché stamattina ho sentito Salman, prima della trasmissione, un mio amico che ha fatto un bel viaggio, e mi ha detto una cosa su cui vorrei la tua spiegazione. Mi ha detto che l'Ungheria ha cacciato il Fondo Monetario Internazionale, l'Unione Europea, la BCE, sì, fuori dai propri confini, una decisione senza precedenti, perché l'Ungheria era semplicemente in ginocchio. Ora, grazie alla propria moneta e al controllo della banca di Stato, mi ha detto Salman, cui fa capo la valuta nazionale, una politica economica decisa proprio dall'Ungheria stessa e non da altri, beh, pare che si sia risollevata. Che è successo? Ti do gli ultimi dati. Aspetta un attimo, abbiamo una telefonata. Chi è al telefono? Pronto? Piero? Piero da Firenze. Sì, buongiorno, mi dica. Sì, buongiorno, salve. Allora, io vorrei parlare un pochino... Della situazione dell'Ucraina, perché la conosco proprio da vicino. Ah, me ci dica allora la sua testimonianza. Sì. Allora, l'Ucraina è un paese diviso in due popolazioni. Una ucraina, che è quella dalla parte di Kiev, che sta richiedendo la... E l'altra filorussa. E l'altra russa. No, non è filorussa. È russa. È russa, appunto. È russa. È quello che abbiamo detto. È uno che parteggia per i russi. No, è russa, è russa. Abbiamo detto che è russa. Bene, io conosco per di più la situazione della Crimea. La Crimea è una regione a statuto speciale. Sì. Il Putin ha rinnovato per 25 anni l'uso delle basi in Crimea e ha un diritto di proteggere le sue basi per 40 chilometri. Non ha invaso niente. Il governatore della Crimea, che adesso si è assunto tutti i pieni poteri, vale a dire difesa, esteri, no, d'accordo. E allora? Non ha armato la popolazione, ma l'ha soltanto invitata a difendersi. Grazie. Addirittura gli ha dato le pale, questa roba. D'accordo. Perché a differenza di Kiev, dove sono stati armati con 10.000 Kalashnikov gente come Alexander. Va bene, abbiamo capito, la ringrazio della sua testimonianza molto precisa. Mario? Io torno all'Ungheria. Sì. La disoccupazione è passata dall'8,9% al 2,9% in due mesi. Non è male, no? E il presidente Ader ha indetto nuove elezioni. Per il 6 aprile Viktor Orban dovrebbe raggiungere un altro mandato. Vai. Il canzoniere. Vado alla lettura? Vai. È l'incipit di un classico della letteratura italiana. L'autobus stava per partire, rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell'alba, sfilacce di nebbia ai campanili della matrice, solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle, panelle calde, panelle, implorante ed ironica. Mix 24. Sara, abbiamo qualche risposta, qualche vincitore? Ancora un attimo. Aspettiamo ancora un attimo e allora intanto l'ultima bolla. Una notizia. Una notizia. La diamo perché è abbastanza grave. È stato ucciso un sacerdote. Un sacerdote a San Giuseppe a Sibari, nel Cosentino, una frazione di Cassano Ionio. È stato trovato cadavere stamattina ed è stato ucciso a colpi di spranga, una cosa ovviamente gravissima, davanti alla chiesa. Professor Simonelli, buongiorno. Intanto aspettiamo la risposta del vincitore, ma lei naturalmente sarebbe il vincitore, lo sa? Io lo so. Glielo dico. Facciamo dire questa volta, no. A Simonelli? No, ci abbiamo una risposta al telefono. Chi è? Sara? Allora glielo facciamo dire a Simonelli. Il giorno della civetta. Giusto. Bravo Simonelli, bravo. Sì, ma Simonelli non ha diritto al libro in quanto partecipante. No, lui lo mette il libro. Un Feltrinelli per il professore. Ma non è possibile. E allora professore, dov'era il canone ieri sera? Allora, facciamo un periodo ipotetico dell'irrealtà. Il canone sarebbe stato sicuramente. Sì. Su Sky, che ha trasmesso in diretta la cerimonia degli Oscar, dove abbiamo visto trionfare Sorrentino. Il canone sarebbe stato su Iris ieri sera, che opportunamente ha mandato in onda due film di Sorrentino, molto belli, Le conseguenze dell'amore e L'amico di famiglia. Quindi grande merito a queste reti. Dico sarebbe stato se ieri non fosse accaduto nel mondo del cinema anche un'altra cosa che adesso sentiamo dalla regia. Ecco, allora. Ella, mi sembra d'aver capito che io ho rischiato di perderti, che ho rischiato di mai più rincontrarti. Ella, mi sembra d'aver capito che tu hai dovuto cominciare a essere così come sei ancora. Allora, professore. Allora, questo era un brano di Hiroshima Mon Amour. Allora, sarebbe stato su queste reti se ieri non fosse morto, all'età di 91 anni, peraltro, Alain René, un grandissimo regista francese. Hiroshima Mon Amour è certo, naturalmente. E allora, ieri mi aspettavo che qualche rete. Vabbè, non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto. E coloro che ne hanno parlato, dire me, nei telegiornali, così l'hanno dipinto semplicemente come uno degli iniziatori della Nouvelle Vague, dimenticando altre cose che non si possono dimenticare. Alain René nel 1956... Non mi faccia tutta la storia di Alain René. No, perché, capito? Abbiamo un problema di curve dell'ascolto anche. Voi dite che i miei interventi... Certo, insomma, bisogna fare attenzione. Allora, almeno fatemi dire, almeno il René civile di Notte e Nebbie e il René sperimentale di Mon Oncle d'Amérique andavano ricordati. Basta così. Va bene, insomma, della televisione non ne dice niente. Tu, Maria, dove l'hai visto il canone ieri sera? Ma io ho guardato un pezzo di Oscar, devo dire. Vabbè. Era là. Tu, là. Sara, cosa hai fatto? Io ho guardato la partita, ma noto che il professore non ne parla. Naturalmente, perché il Milan ha perso. Ma guarda, allora, faccio aumentare le curve. Sì. Quest'anno proprio non ce ne va bene una. No, è drammatico. In cui la palla non vuole entrare. Sì, la sfortuna, certo, la sfortuna. Non c'è niente da fare, né con l'Atletico né con la Juventus. Pietrangelo, tu dove l'hai visto? C'è, cioè, la televisione, no, l'hai guardata? Stavo cercando di aggiustare i termosifoni perché erano rotti, quindi ero sul balcone. A proposito di curve, volete sentire qualcosa che le evoca? Belle curve. Vai. Questo è un gruppo fantastico che ho conosciuto da poco ed è già nella mia playlist, Drizzabone. Senti, senti. Beautiful music. Prego. Sostanzialmente sta diventando una trasmissione musicale. Beh, meno male però, musica, news. Per fortuna che c'era l'ingegner Marchini all'inizio, no? Perché se no, altrimenti... Allora, vi posso riportare su un'altra linea colta? Proviamo. Tutte le domeniche alle 13.30 su Rai 3 va in onda una cosa che merita ampiamente il canone, il programma di Bonito Oliva che si chiama Fuori Quadro. Ieri era dedicata all'arte sociale, come si chiamava una volta, l'arte impegnata. Sapete perché merita il canone? Lo dica. Perché si faccia la domanda e si dia la risposta. Come Marzullo, mentre tutti i programmi di divulgazione ultimamente hanno cercato dei format originali per attrarre il pubblico. Lui invece? Qui invece non c'è format, c'è un tradizionale programma di divulgazione che invece che abbassare il livello del programma per attirare il pubblico, alza il livello del pubblico. Insomma, il maestro Manzi, bis. Ecco. Vabbè, allora siamo sulla strada buona, diciamo. Nessuna ricerca di masterpiece. E ricerca invece della divulgazione. Senta, professore, ma lei ha mai pensato di cambiare vita? Di cambiare vita? Sì. Sì, ogni tanto uno lo pensa, sì. Ma io lo è dico contento così. Mi manca una virtù fondamentale, il coraggio. Non sono un coraggioso. E tu, Mario, hai pensato mai di cambiare vita? Ma veramente a me succede ogni 3-4 anni. Ah sì, ti cacciano. Si ricomincia. A noi ci cacciano, no, Pietrangelo? Non funziona così. Siamo costretti ad andarcene, ci cacciano un po' di tutto. Ma tu, Pietrangelo, hai mai pensato proprio di cambiare vista, visto che ti cacciano? Ogni volta che vado in Sicilia mi viene voglia di fare politica. No, sì, ti prego, cioè, no. È Crocetta che devo si stimola. Devo scrocettizzare la Sicilia. Ma lo fai così che è meglio. Dai. Allora va bene così. Grazie professore. Invece a cambiare vita qualcuno ci ha pensato. Sara Tardelli ha intervistato Simone Perotti, uno che non solo l'ha pensato ma l'ha fatto, e su Rai 5 racconta le storie di chi ha scelto di scrivere una nuova pagina della sua vita. Simone Perotti, chi meglio di te può condurre un programma che si chiama Un'altra Vita, visto che tu l'hai cambiata la tua vita? Abbiamo pensato un po' a una sorta di prosecuzione televisiva di quello che era stato Adesso Basta e dell'esperienza mia. Da dove è nata questa voglia di dare una sterzata alla tua vita? È nata tutte le riunioni insensate a cui per ore ho partecipato guardando fuori dalla finestra, immaginando che fuori ci fosse un'altra vita, o quando ero nel traffico, quando vivevo in un posto dove non sarei voluto vivere. Tu facevi il manager, ma di che cosa? Lavoravo nella comunicazione, ho cambiato più di un'azienda, insomma, hanno favoleggiato i giornali e le televisioni sulla mia carriera, ma io non ero Corrado Passa, un normale impiegato e poi anche con funzioni dirigenti. Hai avuto delle difficoltà a far capire alle persone che ti stavano vicino la tua scelta? Beh, quando è uscito Adesso Basta, fino a quel momento era un'eresia anche solo dire che volevi lasciare il lavoro conquistato duramente. Cioè, esatto. Quindi assolutamente no, io ho lavorato come un carbonaro fino a che non mi sono rivelato, ma solo all'ultimo, ben consapevole che sarebbe stato compreso. Senti, adesso tu sei anche un po' a caccia delle persone che hanno scelto come te di dare una svolta, di reinventarsi un'esistenza, ma c'è un denominatore comune tra tutte le persone che tu hai incontrato per la tua trasmissione? Assolutamente, ma anche in tutte le altre mi hanno scritto, penso, a 300.000 email in un anno e mezzo. 300.000 email? Che sono tantissime le persone che non si trovano più in questo schema. Il comune denominatore è la riassunzione totale della responsabilità della propria vita sulle proprie spalle. Quindi quando uno decide di riassumere la responsabilità totale di tutto quello che gli avviene, nel bene e nel delle male, sta già cambiando vita. Sì, è tutto conseguente alle nostre scelte. E la persona che invece è stata più straordinaria, che ti è rimasta dentro perché ha fatto un cambiamento veramente radicale? Guarda, più dura, soprattutto le persone più giovani, quelle che a 25 anni, magari già con una buona carriera, in 2-3 anni maturate in grandi aziende, me ne ricordo una di Google, per esempio, che avendo davanti un futuro straordinario, ha preso un biglietto per sola andata per l'Australia. Sembra che ci sia un'esplosione, cioè che sia diventato proprio un fenomeno quello di cambiare vita. Ma siamo sicuri che la ragione sia la crisi, oppure è una società che, così come è stata costruita, è sempre più lontana dai nostri bisogni? Ma non c'è alcun dubbio, qui non si tratta di cambiare perché non si trova lavoro, perché le condizioni sono cambiate. Questa è una società che, come diceva Bianciardi nel 1962, nella vita agra, era già impostata per essere inaccettabile. Passare tutto il tempo diurno della nostra vita a fare un lavoro spesso che neppure ami, per raggranellare soldi che non hai il tempo di spendere, è completamente insensato. Questo cambiamento non coincide spesso con un po' di isolamento? Sì, però è una grande opportunità. A furia di stare insieme a milioni di persone che non abbiamo scelto, con cui non vorremmo stare, perdiamo ogni senso della nostra storia, della nostra dimensione individuale. Grazie mille, Simone. Grazie a voi. Bene, io sono d'accordo con Maila da Prato, che ci scrive: perché non credete che il canone fosse sull'ultima puntata di Braccialetti Rossi? Anch'io sono d'accordo con Maila da Prato, mi dispiace per il professore. Oggi a cura di Marina Milone, come sempre, manderemo in onda la nostra storia, e la storia sarà il racconto, il ricordo del grande Lucio Dalla a 2 anni dalla sua scomparsa. E in chiusura un'intervista al suo avvocato e amico Eugenio D'Andrea.